2024 di Enrico Pagliarini. Bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Siamo in onda il venerdì tra le 22 e le 23, domenica 13:30-14, ma come sempre vi consiglio la nostra ricchissima edizione podcast con tutte le nostre interviste in versione integrale. Ha fatto il giro del mondo la notizia di un hotel di lusso austriaco il cui sistema elettronico, che controlla anche le serrature delle porte delle stanze, ha subito un attacco ransomware, mettendo fuori uso anche le serrature, oltre che a tutta una serie di altri servizi. Il problema è che una volta usciti dalle proprie stanze, i clienti non sono stati più in grado di rientrare nelle loro camere proprio perché il sistema era bloccato. Molti di voi conosceranno il ransomware, che è l'ormai frequente uso di malware per bloccare sistemi informatici. Ci sono tantissime, soprattutto piccole e medie aziende, che vengono attaccate in questo modo, e con questo sistema gli hacker mettono sotto ricatto aziende di tutti i tipi, chiedendo un riscatto per sbloccare tutto, e pare che anche questi gestori di questo hotel abbiano pagato un riscatto di 1500 euro in bitcoin. Dunque, allora, dicono gli esperti che non bisognerebbe pagare, anche perché ultimamente il problema è che gli hacker stanno diventando sempre più cattivi, utilizziamo questa parola per non utilizzarne delle altre, per cui in alcuni casi ci sono stati dei pagamenti, ma visto che le chiavi ce le hanno gli hacker del sistema di crittografia con cui sono stati bloccati i dati all'interno dell'azienda, questi hacker hanno cominciato a dire no, voglio altri soldi, e via così. Bisognerebbe chiamare esperti in grado di recuperare i dati, ma soprattutto bisognerebbe essere in grado di evitare alla radice il problema. Abbiamo detto tante volte che per garantire la sicurezza il primo passo da fare non è tecnologico ma culturale. Ad esempio, il cambio frequente delle password, avere password complesse, è uno dei fattori più importanti, ma ovviamente non è l'unico, e anche perché questo non è sempre sufficiente. Ad esempio, questa settimana, sapete che cosa è successo? Mi hanno hackerato. Hanno hackerato il mio account Twitter. È tutto successo nel giro di pochissimi minuti. Devo dire che Twitter è stato molto veloce a bloccare il mio account. Mi è arrivata una mail di avviso. Io in quel momento non mi ero accorto, perché mica sto 24 ore su 24 con Twitter aperto. Questi hacker, ammesso che fossero hacker o sistemi automatici, hanno fatto dei tweet di carattere sostanzialmente pubblicitario, pubblicizzando degli occhiali da sole, quindi nulla di grave, ma avrebbero potuto anche fare cose più gravi. Comunque il tutto è stato risolto abbastanza velocemente, e molti di voi si domanderanno: ah, ma allora non avevi delle password buone? Allora, sicuramente, probabilmente, per il mio account Twitter non avevo password particolarmente robuste, ma devo dire che insomma avevo una password che il sistema diceva che era sicura. Erano alcuni mesi che non la cambiavo, e sicuramente questo è un ingrediente importante. E comunque, passato alcune ore poi a rivedere tutti gli account per vedere se c'erano altri account con password simili. C'è un dibattito molto molto esteso. Se volete scrivere una mail, ammesso che siate esperti del settore, ma io leggo volentieri tutte le opinioni, c'è un dibattito molto esteso tra quelli che dicono bisognerebbe utilizzare un gestore di password, quindi con un'unica password gestisci tutti i servizi, e c'è invece chi dice no, perché crei un singolo punto, se ti viene bucato quel sistema poi metti a rischio tutto il resto. Dibattito aperto, continueremo a parlarne sicuramente per molto tempo. A proposito di security, a proposito di sicurezza, questo è uno degli argomenti di questa puntata di 2024. Adesso alcune notizie in breve selezionate durante la settimana. Digital News. Spesso lamento la scarsa diffusione di contenuti video in alta definizione sulla TV digitale terrestre italiana, mentre su satellite e su internet la situazione è decisamente migliore, e mentre sul digitale terrestre nulla cambia o molto poco cambia, Da questa settimana invece una buona parte dei contenuti di Now TV sono in alta definizione. Ricordiamo che Now TV o Now TV è la piattaforma online di Sky e la mancanza dell'HD di contenuti in alta definizione è stata finora una delle cose più criticate. Manca però lo sport in alta definizione, che è riservato per il sistema satellitare. Due informazioni interessanti dai conti trimestrali di due aziende. Questa settimana ci sono stati i conti di alcune aziende, ma vorrei parlare brevemente di Sony e anche di Facebook. Allora, Sony ci dice, attraverso il commento ai conti trimestrali, che il business dei DVD e dei Blu-ray è in caduta libera a favore dello streaming. E qui uno potrebbe dire, ma vabbè, qual è la novità? Però vedendolo e visto commentato anche dalla stessa Sony, è una ulteriore conferma. Facebook ci informa che il traguardo dei 2 miliardi di utenti è sempre più vicino. Pensate, 2 miliardi di utenti, una cosa incredibile. Allora, gli utenti iscritti sono 1 miliardo e 860 milioni. Di questi, 1,23 miliardi usa il servizio tutti i giorni e 1,15, quindi 1 miliardo e 150 milioni di persone, lo fa da mobile, utilizza lo smartphone. Infatti, l'84% delle entrate pubblicitarie derivano proprio da piattaforme mobili. Un'ultima notizia riguarda i bambini, perché anche i bambini sono uno degli obiettivi dell'industria di internet e la dimensione digitale dei bambini è un tema di interesse per i produttori di giocattoli. La Lego ha lanciato, per il momento ancora non in Italia, in altri paesi, ma comunque in Italia dovrebbe arrivare presto, un social network per bambini di età inferiore ai 13 anni che si chiama Lego Life, quindi vietato ai bambini che hanno più di 13 anni. Il bambino è protetto dietro ad un avatar e lo scopo è condividere le foto delle proprie costruzioni di mattoncini. Lego promette di avere molta attenzione alla sicurezza con un team di persone che controlla tutti i contenuti. E a proposito di bambini e dimensione digitale, comunque di giocattoli che diventano sempre più digitali e sempre più connessi, anche di questo parleremo in questa puntata. Dunque, parleremo anche di roaming, dell'accordo che c'è stato a livello europeo per quanto riguarda i prezzi all'ingrosso del roaming. Questo è un argomento che potrebbe sembrare per addetti ai lavori, in realtà è un argomento che tocca a tutti noi, che quando viaggiamo per lavoro o per divertimento in Europa dobbiamo ancora oggi pagare una piccola sovrattassa, sia se navighiamo sia se parliamo, per le connessioni all'estero, quindi per il roaming. Dal 15 giugno le cose cambiano, ma ci sono tutta una serie di retroscena che vorremmo raccontarvi in questa puntata. Adesso parliamo di sicurezza digitale. Secondo l'Osservatorio Information Security and Privacy della School of Management del Politecnico di Milano, il giro d'affari del settore security in Italia nel 2016 ha raggiunto i 972 milioni di euro, quindi diciamo che siamo vicini al miliardo, in crescita del 5% rispetto al 2015, ma sono soprattutto le grandi aziende a spendere per questa esigenza e solo il 40% delle comunque grandi imprese ha un piano di investimento pluriennale, quindi diciamo una strategia che guarda un po' avanti. E purtroppo solo il 46% ha in organico, in modo formalizzato, una figura che in realtà dovrebbe essere sempre più frequente, e lo sarà anche per legge, che si chiama CISO, cioè il Chief Information Security Officer, cioè il capo della sicurezza informatica all'interno delle aziende. Allora, di questo ho parlato con Gabriele Fagioli, che è responsabile scientifico dell'Osservatorio Information Security and Privacy della School of Management del Politecnico di Milano. l'attenzione delle aziende, delle pubbliche amministrazioni che abbiamo rilevato quest'anno da un elemento di positività, e cioè il fatto che l'attenzione sta aumentando. Questa attenzione sta aumentando non solo perché si sono moltiplicati i casi di incidente e anche sui media quotidianamente si leggono casistiche più o meno gravi e magari anche folcloristiche in alcuni casi, penso al caso dell'Austria con i turisti rimasti fuori dalle stanze d'albergo. Dall'altra parte questa pressione mediatica però costringe i manager delle imprese e delle pubbliche amministrazioni a fare i conti con il problema. Non si può più parlare di qualche cosa che era per addetto ai lavori. Oggi tutti parlano di quello che è successo in America tra Trump e questa ipotetica ingerenza dei russi, e quindi tutti si stanno rendendo conto che c'è un problema pratico, reale. Questo nella vita quotidiana questi anni è molto scaricato sul cittadino, sui casi di malware, sui casi del ransomware, cioè tutta quella migliaia di casi che accadono di chi scarica le mail, clicca perché pensa che sia un link di qualcuno che conosce, il malware li cripta i dati e poi paghi in bitcoin per ottenere indietro i dati ed aver pagato il riscatto, tra virgolette. Ecco, la nostra ricerca ha evidenziato che c'è da una parte quindi un aumento di attenzione, sicuramente anche un aumento di spesa dal punto di vista di investimenti in tecnologia, in misure di sicurezza, in consulenza, da tutti questi punti di vista. Dall'altra parte però ci sono settori di mercato che ancora sono un po' distanti, e penso moltissimo alle PMI, e questo è un problema su cui bisogna fare delle riflessioni. Dall'altra parte la crescita del problema è maggiore della capacità di difesa, e quindi ancora che ci sia efficacia dal punto di vista della prevenzione e protezione è un elemento in analisi. Quindi dal punto di vista delle piccole e medie imprese non c'è nessuna notizia, nessuna buona notizia, cioè siamo sempre a livello che abbiamo commentato negli anni passati, poca attenzione, poca consapevolezza e anche poca competenza. Allora, sicuramente starà aumentando anche lì, probabilmente. La nostra ricerca è orientata anche nei PMI e vediamo, diciamo, degli elementi di positività. Però c'è un problema di fondo. La leva normativa e soprattutto la pressione che c'è e che ci sarà in quest'anno e mezzo con l'arrivo del regolamento europeo è fortemente presa in considerazione dallo strato delle aziende più dimensionate. Le PMI non hanno né competenze né i soldi per poter approcciare ai progetti di questa natura, e non è detto che possano avere un interesse neanche poi concreto di business nel farlo se non vedono un rischio potenziale molto, molto grave. Ora è vero che si cominciano a vedere casi di aziende distrutte da casi di cyberattacchi, però il piccolo imprenditore potrebbe essere portato a pensare: ma perché debbono colpire me da questo punto di vista? Allora, secondo noi ci sono delle strade da percorrere. C'è la strada cosiddetta di soft law, cioè di avere delle normative più semplificate per le PMI, c'è la strada dei codici di condotta e quindi spingere l'attenzione anche delle categorie professionali e delle associazioni imprenditoriali, e poi c'è il tema sicuramente dell'esternalizzazione, cioè poter utilizzare piattaforme esternalizzate in cloud, per esempio, che permettano di far fare sicurezza al fornitore, perché nessuna PMI ha capacità di spesa per poter fare questo. Certo, questa potrebbe essere una tendenza per le PMI. Sicuramente, noi pensiamo che questo sarà un driver. Oltre a pensarlo noi, lo pensa la Commissione europea nella politica di sviluppo del cloud computing lanciata nel 2012, che ha obiettivi molto aggressivi dal punto di vista di ritorno di posti di lavoro in Europa e di fatturato sul cloud pubblico entro il 2020. Sul Internet of Things o Internet di qualcosa, perché ormai ci sono varie declinazioni, c'è attenzione o prateria vergine soprattutto per gli hacker? No, c'è molta attenzione, questo perché ormai da anni, e ormai è diventata anche normativa, c'è l'obbligo, che poi entrerà in vigore fra un anno e mezzo, ma di fatto è già in essere, di approcciare il tema dell'IoT approcciandolo by design, che vuol dire oggi non più vado a realizzare un prodotto e poi lo testo sulla della sicurezza, ma progettarlo già tenendo conto della sicurezza. Questo approccio by design, imposto adesso anche normativamente, darà la possibilità di sviluppare prodotti sempre più sicuri, ci auguriamo. Io sono sempre dell'idea che la tecnologia andrà avanti, non è che andiamo in macchina per paura degli incidenti, le macchine sono più pericolose di anni fa da un punto di vista di velocità, ma sono più sicure nelle strumenti a supporto del cittadino e del guidatore. Questo, vedete, nell'IoT vale per tutto. Ovviamente la tecnologia da sola però non basta, c'è un aspetto educativo fondamentale delle persone, la tecnologia deve usarla consapevolmente, altrimenti uccide. Certo, ci si assicura perché ci si assicura contro gli incendi, contro i furti, contro gli attacchi cyber? Ci si può assicurare, oggi ci sono compagnie assicurative che hanno dei prodotti specializzati sotto questo profilo, la nostra ricerca dice che non sono ancora molto utilizzati, questo probabilmente perché non c'è ancora la consapevolezza completa dei rischi a cui si corre. Secondo me ci sarà un'evoluzione, bisogna vedere in che termini, per il fatto che le normative entrate in vigore in quest'ultimo anno pretendono analisi dei rischi. Analisi dei rischi è in alcuni casi valutazione di impatto e quindi è presumibile che dopo aver fatto l'iter di analisi dei rischi e valutazione di impatto, imprese e pubbliche amministrazioni possano vedere nell'assicurazione uno strumento congruo. Vorrei fare una domanda sul cosiddetto enforcement, quindi ci sono le normative, o comunque c'è un set di normative anche in arrivo nel giro di poco più di un anno, ma chi controlla poi che queste normative vengono applicate dalle aziende? Ci saranno e ci sono già le autorità di controllo che sono preposte a fare queste verifiche. TNT, io penso che il miglior controllore però è il soggetto in cui i dati vengono trattati. Cioè alla fine ognuno di noi dà i dati a tantissimi soggetti che fanno attività, svolgono servizi e quando questi soggetti ritengono, quindi quando il cittadino che ha dato i dati ritiene che i suoi dati siano trattati non correttamente, è il primo che segnala l'autorità di controllo. Questo non lo diciamo noi come osservatorio, ma lo dice l'autorità garante italiana, le segnalazioni stanno aumentando moltissimo. Di cittadini che si lamentano, comunque chiedono verifiche. Corretto, esattamente. E quindi l'attenzione anche da questo punto di vista aumenterà, anche perché le sanzioni che verranno introdotte sono elevatissime. Fino ad oggi l'autorità italiana non ha avuto un atteggiamento, diciamo, sanzionatorio, punitivo, anzi ha aiutato, secondo me, molto il mercato a evolversi in un'ottica positiva. Certo che le sanzioni che sono state introdotte, che arriveranno nel maggio 2018, che parlano di decine di milioni di euro di sanzioni o di percentuale del fatturato mondiale, sulla carta fanno paura. Sulle infrastrutture critiche o su aziende che hanno una posizione che può creare problemi anche al sistema paese? C'è stata un'attenzione anche del vostro osservatorio? Sì, ci sono state fatte anche degli approfondimenti da questo punto di vista. Sicuramente i dati dicono che le infrastrutture critiche hanno subito nell'ultimo anno un aumento delle percentuali del numero di attacchi e questo probabilmente deriva anche dalla situazione internazionale che naturalmente riguarda l'ISIS e non solamente. Ci sono delle normative specifiche anche per le infrastrutture critiche. È evidente che sono ambiti dove l'attenzione al tema è maggiore e quindi in qualche modo c'è un po' un atteggiamento di imposizione normativa, ma di consapevolezza che sono ambiti in cui l'elemento è già tenuto in alta considerazione. Si parla molto spesso di Internet of Things, la Internet degli oggetti. Ne abbiamo accennato anche in questa intervista. Sapete che ormai c'è una declinazione della IoT, della Internet of Things, per ogni settore. Chi parla di biciclette, e anche le biciclette sempre più sono connesse, parla di Internet of Bikes. Ho seguito un appuntamento molto importante del settore delle pulizie. Anche in questo settore molte macchine che fanno le pulizie sono o saranno collegate ad Internet, ma c'è tutta una infrastruttura che è connessa ad Internet e in quel caso si parla di Internet of Clean. Insomma, tantissime declinazioni, potete inventarvi la propria, magari quella del vostro settore, e c'è anche la Internet of Toys, cioè la Internet dei giocattoli. Sono sempre di più, infatti, i giocattoli connessi, e lo saranno sempre di più in futuro, e questa tendenza ha fatto crescere in alcuni paesi, anche in Europa, alcune preoccupazioni sull'uso che viene fatto dei dati che questi giocattoli connessi raccolgono. Di questo ho parlato con Giovanna Mascheroni, che è coordinatrice italiana di EU Kids Online, che è un gruppo di ricerca europeo sui bambini e su tutto quello che succede online, ed è docente alla Cattolica di Milano. Diciamo che i due modelli principali sono, da un lato, bambole e orsacchiotti che funzionano con tecniche di riconoscimento vocale. Hanno dei software di riconoscimento vocale che registrano le conversazioni che hanno col bambino e rispondono al bambino in tempo reale con dei software di sintesi vocale. questo rende l'esperienza di gioco sicuramente più interessante e personalizzata, e hanno anche ovviamente un aspetto educativo. Il problema è che per migliorare l'interazione fra il giocattolo e il bambino, le conversazioni sono registrate e non si sa bene come vengono utilizzati i dati. Il gioco che è stato sotto accusa nella poco prima di Natale, appunto My Friend Kyla, che è questa bambola, pare che invogliasse i bambini a rivelare quante più possibili informazioni personali sulla propria famiglia, sulle abitudini di consumo, sul nome dei genitori, la scuola frequentata e via dicendo. Questo ha destato parecchie preoccupazioni. In particolare dove queste preoccupazioni sono nate? Queste preoccupazioni sono state, cioè questa denuncia, una vera e propria denuncia, è stata fatta dal Norwegian Consumer Council, che poi tramite la rete delle associazioni di protezione dei consumatori europea ha fatto un'esperienza posto alla Commissione europea, in particolare al garante della privacy e della protezione dei dati personali, perché questi giocattoli violano poi le normative europee sulla privacy e le normative europee possono violare. In particolare questo My Friend Kyla, gli altri in effetti possono violare le normative europee sulla protezione dei dati personali e sulla protezione dei consumatori. Contemporaneamente però una serie di altre ONG statunitensi, tra cui una ONG che promuove un'infanzia libera dalla commercializzazione e dallo sfruttamento commerciale, hanno fatto un esposto alla Federal Trade Commission denunciando le stesse violazioni. Perfetto, questo per dire che ci sono una serie di preoccupazioni. Poi torniamo alle preoccupazioni, sì. Ma volevo fare degli altri esempi, sì, per far capire che cos'è poi questa Internet of Toys. Sì, ci sono poi dei dispositivi che sono ancora più educational e che sono questi robot o droni telecomandati da app. L'aspetto educational sta nel fatto che i bambini sono in grado di imparare in questo modo le basi del coding e della programmazione. Certo, poi in questo mondo ce ne sono tanti di robot che aiutano i bambini ad imparare la programmazione, quindi da questo punto di vista insomma abbiamo una lunghissima lista. Se vogliamo continuare, soprattutto continuare sul tema oggetti connessi, perché Internet of Toys è soprattutto c'è una forte attenzione sulla connessione di questi giocattoli. Ovviamente c'è un mercato in forte espansione per quello che riguarda l'infanzia, ma l'infanzia dalle sue origini, per cui per calmare le ansie dei genitori apprensivi ci sono tutta una serie di dispositivi indossabili, per cui wearables, che aiutano il genitore a monitorare i parametri vitali del bambino, per cui uno dei primi sul mercato sono queste calzine che si fanno indossare soprattutto di notte al bambino perché monitorano appunto il battito cardiaco, il respiro e via dicendo, e mandano tramite una segnalazione acustica sullo smartphone del genitore un segnale di allarme quando qualcosa cambia. Ci si è accorti però che questo quando qualcosa cambia molto spesso è dovuto semplicemente al fatto che il bambino si gira e perde della calzina e quindi creano ansie, in realtà anziché placare le ansie dei genitori creano ancora più ansie. Sempre in questa direzione però sta nascendo anche una famiglia di giocattoli che monitorano i parametri vitali, per cui ad esempio uno dei primi è stato questo Teddy the Guardian, che era questo orsacchiotto che monitorava poi la temperatura corporea e dell'ambiente circostante, sempre con dei sensori, in questo caso in una zampa. E adesso Teddy the Guardian ha due fratellini, per cui c'è il leone che è sempre un peluche molto carino che monitorerà anche il ritmo cardiaco e le variazioni, eventuali variazioni nel ritmo cardiaco, e una giraffa che invece riesce a monitorare con dei software di riconoscimento anche visivo e altri sensori, riesce a monitorare la postura del bambino, per cui insegna al bambino ad assumere una postura corretta fin da quando è piccolissimo. Certo, molte delle attività che i bambini fanno assieme a questi giocattoli sono attività educative e direi che molti sono gli aspetti positivi, però lei ci suggerisce che ci sono anche degli aspetti potenzialmente negativi o addirittura negativi già oggi, cioè? Sì, ci sono aspetti di cui i genitori sono poco consapevoli, che riguardano innanzitutto questioni di privacy e di trattamento dei dati personali, perché questi giocattoli non consentono una personalizzazione del profilo. Se si accettano i termini e condizioni del giocattolo, li si devono accettare in toto. Vabbè, questo vale per tutte le cose che succedono su internet, di fatto. Accettiamo un sacco di condizioni, non è che possiamo cambiare le condizioni. Sì, però mentre ad esempio sui social media c'è un margine di libertà di personalizzazione del proprio profilo e dei dati che io decido di condividere, se non altro con gli altri utenti, magari non con l'azienda stessa. In questi casi no. Questo è un problema ad esempio della Barbie parlante, Hello Barbie, per cui se non si accetta in toto, l'esperienza di gioco ne risulta diminuita, diventa una Barbie normale, quindi tanto vale non comprarla. Le aziende non sono trasparenti sul modo in cui vengono archiviati e trattati, manipolati, analizzati questi dati, e soprattutto da chi. Per cui My Friend Kyla e IQ Robot ad esempio sono stati accusati perché senza dirlo esplicitamente ai genitori in realtà fornivano poi i dati e le conversazioni registrate a un'azienda terza, un partner terzo, che è appunto Nuance Corporation, che li usa per migliorare i propri software di riconoscimento vocale, per cui migliorare appunto il modo in cui l'intelligenza artificiale risponde al parlato umano e interagisce con le persone. Ci sono altre preoccupazioni che stanno nascendo? Sì, un'altra preoccupazione che secondo me è sempre sottovalutata è la preoccupazione relativa alla commercializzazione dell'infanzia. Mi spiego, questi giocattoli hanno poi delle frasi preregistrate con cui rispondono ai bambini e che a volte possono contenere dei messaggi commerciali, delle pubblicità, no? Per cui ad esempio My Friend Kyla si è trovato che sponsorizzava tutta una serie di prodotti della Disney. Certo, quindi noi siamo abituati ad un mondo dove soprattutto per l'infanzia sono state normate molte cose, che ne so, ad esempio messaggi pubblicitari, sì. In questo caso c'è un'area grigia all'interno della quale ci si può muovere, ma qualcuno si sta preoccupando della regolamentazione? In realtà il nuovo General Data Protection Regulation dell'Unione Europea, che entrerà in vigore in primavera 2018, si occupa anche dell'Internet of Things, anche perché è un settore di sviluppo e di innovazione su cui l'Unione Europea sta puntando molto. In realtà non si capisce bene come potrà essere tradotto in pratica, perché prescrive che per l'utilizzo sia di piattaforme connesse che di device connessi sia che di piattaforme online, ma a partire dai social media, ci voglia sempre il consenso dei genitori. Come rendere operativo questo consenso in un modo che sia effettivamente verificabile è ancora un problema. Voi parlate anche di normalizzazione del controllo. Sì. Che cosa intendete e perché potrebbe essere un problema? Sì, allora non è in realtà un fenomeno nuovissimo, è un fenomeno che si osserva da qualche anno e che appunto fa sì che la sorveglianza non sia più soltanto la sorveglianza da parte delle istituzioni, dei governi o la sorveglianza da parte delle aziende che ci profilano e monitorano, ma sia diffusa nelle pratiche sociali, nelle interazioni sociali, e diventi diciamo così una cosa non soltanto socialmente accettata ma anche desiderata. Per cui sta diventando un comportamento desiderabile da parte del genitore monitorare i propri figli appunto tramite queste app e dispositivi di controllo dei parametri vitali, piuttosto che le app in cui il genitore può registrare quante volte mangia il bambino, quanto dorme, via dicendo, con i neonati. E poi più avanti il controllo, non so, attraverso appunto il cellulare piuttosto che gli stessi social network. Anche fra adulti sui social network, in realtà monitorando costantemente cosa fanno i nostri amici e le persone a noi più vicine, in realtà stiamo esercitando una forma di controllo sociale. E queste sono alcune delle preoccupazioni. Era anche un'occasione questa chiacchierata, questa intervista, per aprire lo sguardo, allargare lo sguardo, puntare i riflettori su questo tema, visto che nei prossimi anni sempre più giocattoli, un numero crescente di giocattoli sarà connesso e quindi il tema del trattamento e comunque anche della gestione, chiamiamola così, dei profili dei bambini da parte dei genitori sarà un tema importante. E visto che tra i nostri ascoltatori ci sono sicuramente molti genitori amici di genitori, questo è sicuramente un tema di attenzione. Quello della normalizzazione dei controlli e del controllo sociale mi sembra anche questo un tema estremamente importante, estremamente interessante. C'è un po' un eccesso di controllo e penso che questo poi abbia un riflesso sul grado di fiducia quando noi chi ha più di 40 anni, 50 anni, quando eravamo bambini non c'erano tutte queste possibilità di controllo con i genitori, c'era una sorta di rapporto fiduciario per cui tu andavi con gli amici e mica loro potevano controllare dove tu andavi. E oggi questa mania, in alcuni casi una vera e propria mania del controllo, forse ha anche delle ripercussioni sul grado di fiducia reciproca tra figli e genitori. È un tema complesso, forse non è un tema prettamente tecnologico, ma mi sembrava giusto accennarlo. Poi ognuno, se vuole, può approfondire, discuterne tra amici, parenti, oppure anche tra bambini e genitori, anche se, insomma, se i bambini sono piccoli è una chiacchierata un po' difficile da sostenere. Questo è 2024, la versione podcast del nostro programma. Riprendiamo tra pochi secondi. Riprendiamo questa puntata di 2024, io sono Enrico Pagliarini, questo è il programma di tecnologia di Radio 24, vi ricordo la nostra versione podcast, l'edizione digitale di 2024 con tutte le nostre interviste in versione integrale. Visto che il mercato pubblicitario che gira attorno ai motori di ricerca è sempre più ricco, ne abbiamo parlato anche recentemente al 2024, c'è chi tenta di ottenere una fetta di questa ricchissima torta. Allora, dal 2013 è attivo un motore di ricerca che si chiama Quant, è scritto con la Q di quadro WANT, Quant, ho detto anche Quant, però si pronuncia Quant, che ha ricevuto decine di milioni di euro di finanziamenti anche dalla Cassa Depositi e Prestiti francese. Qui faccio un inciso sulla Francia. Allora, da sempre, diciamo, in Europa alcuni, ma i francesi in modo particolare, sostengono che l'Europa dovrebbe avere un motore di ricerca alternativo a quelli americani, cioè a Google poi in particolare. Sono soprattutto i francesi. Questo è un atteggiamento che ha alcuni aspetti condivisibili su mille fronti. Qua stiamo parlando di motori di ricerca, quindi ho fatto il riferimento al motore di ricerca, al dibattito che c'è in Francia rispetto agli Stati Uniti. Quindi è chiaro che per questo motivo Quant ha trovato terreno particolarmente fertile in Francia e buona parte dei finanziamenti sono arrivati dalla Francia, oltre che essere stato fondato da un francese. Ma i capitali sono arrivati anche da Axel Springer, che è uno degli editori più importanti d'Europa e un importante editore tedesco che pubblica tra gli altri la Bild. Questa settimana Quant ha annunciato ulteriori finanziamenti. Allora io ho tentato di scoprire qualche cosa in più, sono stato curioso, ho detto ma come mai tutti questi finanziamenti per un motore di ricerca in un mercato dominato da un player importante, molto difficile da scansare come è Google, chi è che sta tentando questa operazione che è estremamente complicata ed estremamente difficile? Ne ho parlato con Alberto Chalon che è direttore generale di Quant e tra l'altro è italiano, quindi insomma la chiacchierata è stata anche molto più facile, semplice, diciamo anche radiofonicamente più semplice da offrirvi. In Europa abbiamo solo quel motore ed è l'anomalia del nostro mercato, dove l'altro motore, Google, ha oltre il 97% di market share, quello che non è valido nemmeno negli Stati Uniti, che è il suo mercato di origine, dove ha solo, tra virgolette, il 65%. Quindi questa percentuale è simile in quasi tutti i paesi europei? Sì, è simile in tutti i paesi europei perché l'Europa è l'unico grande mercato, perché poi gli altri possiamo considerare la Russia, la Cina, il Giappone, la Corea e altri mercati minori, che non ha mai avuto l'ambizione, la forza di cercare un'alternativa locale che è necessaria. E oggi più che mai, con tutto quello che sentiamo e leggiamo con il nuovo presidente sul trattamento dei dati, sulle indagini sia sui social network che su Google a livello mondiale, e quindi Quant, con una visione direi lontana, che con grande anticipo basa la sua proposta su due valori principali: il rispetto della privacy degli utenti, delle loro ricerche e dei dati, e sulla neutralità dei risultati della ricerca stessa. Questi sono i due principi fondamentali sui quali si basa la nostra proposta. Poi ci torniamo, però c'è un aspetto importante che è quello dei finanziamenti, perché lanciare un motore di ricerca o è da pazzi o è comunque da visionare, insomma è un esperimento molto molto difficile. Allora, voi siete attivi dal 2013 e in questi anni, anche ultimamente, ed è il motivo poi dell'annuncio di questa settimana, avete ricevuto dei capitali importanti. Breve storia, in pochi secondi, sui finanziamenti. Abbiamo ricevuto un totale di aumenti di capitali per 9 milioni, di cui 5 milioni nel 2014 dal gruppo Axel Springer, che è il gruppo digital media più importante d'Europa e che ha una unit di investimenti importanti, quindi non è un media tradizionale come sono quelli italiani, ma è anche orientato al digital con investimenti in tante aziende. Un finanziamento di 5 milioni dalla Banca Europea. E oggi il nuovo round è di 18 milioni e mezzo con la Cassa Depositi e Prestiti e Axel Springer, più 20 milioni di finanziamento da parte della Banca Europea di Investimenti. Quindi oggi riusciamo a raccogliere 38 milioni e mezzo. Sono tanti, ma sono pochi, perché in effetti un progetto di un motore di ricerca con ambizioni europee ha bisogno di tanti soldi. Però sono una buona iniezione di liquidità per portare avanti il piano e questo progetto. Noi guardiamo in questo momento più ai valori e alle esigenze del cliente finale, che quindi è il cliente che fa le ricerche. Poi l'effetto secondario è che una volta che un cliente utilizza un motore di ricerca, che può essere di nicchia e quindi può avere anche soltanto 1%, 3%, 5% di market share di un mercato molto grande, perché diamo una dimensione a questo mercato: in Europa oggi è 20 miliardi, quindi Google transa 20 miliardi. Se tu hai 2% di questo mercato, hai 400 milioni di fatturato a disposizione che giustificano un'azienda e giustifica una realtà importante. Quindi il modello di business è lo stesso di altri motori di ricerca, cioè pubblicità correlata alle ricerche che fanno i consumatori. Allora, la risposta è assolutamente sì all'interno del motore di ricerca. La differenza tra noi e gli altri motori di ricerca è dopo. Cerchiamo di sviluppare questo concetto. Negli altri motori di ricerca, una volta che è stata fatta una qualsiasi ricerca, l'informazione della persona, del ricercante e di quello che sta cercando viene condivisa con altri siti. Facciamo un esempio: stiamo cercando il nuovo telefonino e usciamo dal motore di ricerca e andiamo in un sito generalista di editoria, ritroviamo in display quel telefonino. Non è magia, ma è il motore di ricerca che in tempo reale ha comunicato all'editore l'esigenza della persona in questione e ha riproposto quello che ha ricercato. Se andiamo un po' più lontano e usciamo dal ludico, da un telefonino, e parliamo di cose un po' più delicate, sto cercando un medicinale, il motore di ricerca immagina e sa che sintomo ho. E quindi tutto questo, secondo noi, è un po' oltre i limiti. È corretto monetizzare la propria audience, quindi quando tu mi chiedi sto cercando un telefonino, è giusto che io completi le informazioni con un link pubblicitario, e non si può vivere senza fare dei revenue, se crea valore per un'azienda. Non bisogna però, come dire, condividere queste informazioni con altri, soprattutto perché non tutti gli utenti ne hanno coscienza e non tutti potrebbero voler accettare questa cosa. Infatti noi riteniamo che ci sia una parte di mercato, che riteniamo sia almeno il 10% degli utilizzatori, che hanno come rispetto della propria, dei propri dati, delle proprie ricerche, una priorità. Questo motore di ricerca nasce in Francia. Axel Springer è un investitore importante, abbiamo sentito, è tedesco, quindi questi sono i due mercati principali. Che ruolo potrà avere l'Italia e soprattutto quali saranno i paesi su cui puntate? Allora, il piano prevede da qua al 2021 di essere in tutti i paesi d'Europa. La domanda è pertinente, in effetti in questo momento Francia e Germania la stanno facendo un po' da padrone, sia per il fatto che la Francia è il luogo dove è nato Quant e perché la Germania con Axel Springer ha messo questi capitali e ha assistito la società. L'Italia sarà il nostro terzo mercato in Europa. Ho la speranza che ci sia anche in Italia un investitore, un industriale che possa apportare del valore, quindi non siamo alla ricerca di capitali tout court, perché anche nel caso della Francia la Cassa Depositi lo riteniamo un investitore strategico che può aprire all'interno del mercato delle chiavi importanti. Se ci fosse questa opportunità in Italia, ben venga, perché l'Italia è un paese di 60 milioni ed è il paese dove io sono nato e vivo, che può dare tanto anche a questa storia. Prima hai accennato alla neutralità della ricerca. A parte che c'è un dibattito incredibile e potremmo dire che non esiste un motore veramente neutrale, perché già nel momento in cui tu introduci un algoritmo e fai una scelta, quella scelta è comunque fatta in base ai tuoi criteri. Però voi dite: noi siamo più neutrali di Google. Allora, nell'assoluto la neutralità si intende coerenza, ovvero una volta che abbiamo stabilito un algoritmo e abbiamo stabilito quali sono le regole del gioco, le manteniamo. Quello che è, diciamo, la critica che il mercato in questo momento fa a Google sulla neutralità è quella che queste regole vengono cambiate per fini economici propri. L'esempio è oggi quello che succede nel travel, ovvero Google nel travel spesso mette la sua proposta interna davanti a quella degli altri in maniera naturale e forse non lo sarebbe se l'algoritmo mantenesse la sua coerenza. Questo è un po' la critica che gli viene rivolta da noi e dagli altri. Sì, facciamo un esempio. Per travel intendiamo viaggi. Yeah. Quindi quando noi cerchiamo un viaggio, un volo aereo, eccetera, facciamo l'esempio pratico. L'esempio pratico è che da qualche tempo, nel momento in cui vai ricercando su Google un aereo, spesso come primo risultato di ricerca naturale, quindi l'utente intende che sia il più pertinente, il più performante, non quello sponsorizzato, per il quale non ci sarebbe problema se Google si mettesse con il suo Google Flight sponsorizzato per primo, lo trovi come primo risultato di ricerca naturale. Questo per l'utente non evoluto, questo per l'utente che non ha una conoscenza profonda del digitale, gli può sembrare che sia in effetti il risultato più pertinente e più corretto. In realtà, se andiamo a valutare i servizi, non lo è e non sarebbe meritevole. In questo modo si può intendere che l'algoritmo ha fatto una certa eccezione ed è questo quello che noi rimproveriamo. Quindi la neutralità vuol dire, una volta stabilito un algoritmo, una volta stabilita una regola, non andiamo a modificarla ad uso proprio per fini economici o per fini diversi. Certo. Come fate a garantire che il motore, cioè che voi non sappiate nulla di me che vengo sul vostro sito a fare delle ricerche? E da un certo punto di vista perdete anche una fetta di business. Allora, rispondo alla seconda. Non perdiamo una fetta di business perché anche per Google la maggior parte dei ricavi è fatta dentro il motore di ricerca. Quindi il fatto che noi non sappiamo e non vogliamo saperlo e non vogliamo tenere i dati, quindi se non li abbiamo non li possiamo vendere, non li possiamo perdere e vi garantiamo la massima privacy e trasparenza, non ci limita nel, diciamo, produrre ricavi per l'azienda. I dati non ci sono, perché l'utente quando arriva, noi abbiamo un sistema nella nostra infrastruttura che scherma il suo IP, quindi la sua targa, il suo codice d'entrata, ci propone attraverso un algoritmo un numero indecifrabile, quindi noi abbiamo questo numero perché ovviamente dobbiamo avere un numero, ma non sappiamo chi c'è dietro in realtà. Rispondiamo a tutti nella stessa maniera e nel momento in cui non sappiamo chi ha cercato cosa, non possiamo trasmetterlo a nessuno. Questo è stato controllato dai servizi dello Stato francese, la CNIL, che è un servizio di sicurezza nazionale, e oltre questo, quindi nel rispetto totale della privacy europea. Oltre questo, in Francia siamo riusciti ad avere una lettera dal Dipartimento Ministeriale nel quale chiede che tutta l'amministrazione francese abbia Quant come motore disponibile di ricerca all'interno dei computer. Questo potrebbe sembrare una cosa ovvia, ma il nostro mercato è un mercato anche molto chiuso. Non è semplice introdurre un nuovo player all'interno dei navigatori. Perché? Perché intanto il motore di ricerca, soprattutto per quello che concerne l'amministrazione, è un servizio gratuito. Essendo un servizio gratuito, non necessita di una gara d'appalto. E quindi va a son dire che il primo che è arrivato prende il posto per tutti. È stato necessario fare un lavoro di audit per far verificare che la nostra promessa di valore è quella. E a questo punto siamo riusciti ad essere nella lista dei motori disponibili in Francia e utilizzati dall'amministrazione francese. Quindi un dipendente pubblico francese usa Quant? Ha la scelta di utilizzare Quant. Noi ci auguriamo, i risultati che abbiamo in questo momento sono molto positivi. Noi non imponiamo by default di usare Quant, quello che chiediamo è che l'utente abbia l'opportunità di scegliere tra noi e gli altri. Adesso parliamo di roaming, non so a quanti interessa questo argomento tra chi ci sta ascoltando, tradotto, non so quanti di voi viaggiano abitualmente per lavoro o per turismo in giro per l'Europa, però devo dire che questa è una cosa che capita molto spesso negli ultimi anni, voi anche per il successo che hanno avuto le compagnie aeree low cost, il traffico e quindi lo scambio e i viaggi all'interno dell'Unione Europea si sono moltiplicati. Pensate anche alla comodità di non dover passare le frontiere tranne che per la Gran Bretagna. Insomma, il traffico è aumentato e da una decina di anni c'è un dibattito all'interno dell'Unione Europea ed è stata anche una delle promesse di alcuni politici dell'Unione Europea quella di azzerare i costi di roaming, cioè si dice in termini tecnico comunque all'inglese roam like at home, quindi fare roaming come si fosse a casa, quindi pagare la stessa tariffa telefonica che si paga quando si è all'interno dei confini nazionali. Dunque questo accadrà più o meno, poi spieghiamo il più o meno, a partire dal 15 giugno prossimo, quindi 15 giugno 2017 scompare l'extra costo roaming, ma non del tutto, non del tutto, e adesso spieghiamo. Partendo da un accordo che c'è stato questa settimana, un accordo sui costi all'ingrosso, cioè le tariffe che gli operatori si pagano tra di loro quando l'uno utilizza la rete dell'altro, cioè quando io vado all'estero ovviamente mi aggancio alla rete di un altro operatore e quindi il mio operatore di origine deve pagare l'altro operatore. C'è un prezzo all'ingrosso ovviamente. Allora, per fare un po' il punto della situazione, abbiamo con noi Innocenzo Genna, che è il nostro esperto ed è esperto di regolamentazione europea in ambito di telecomunicazioni, un mercato complicatissimo, ma Innocenzo tutte le volte che lo chiamiamo ci chiarisce questo mercato complesso. Bentornato a 2024. Grazie. Facciamo subito il punto sull'ultima novità di questa settimana, la novità riguarda i prezzi all'ingrosso. Allora, che tipo di accordo è stato raggiunto, che cosa sono questi prezzi e qual è insomma il nocciolo della novità? Il prezzo all'ingrosso sono il costo che deve pagare un operatore per poter usufruire all'estero del servizio roaming per il proprio cliente. Questi costi devono essere regolamentati perché c'è sempre stata una tendenza degli operatori ad alzare questi prezzi per evitare concorrenza dall'estero. C'è stato questo accordo politico insieme all'Unione Europea in base al quale sono stati fissati dei tetti massimi. Questi tetti massimi sono abbastanza elevati a detta del sottoscritto e anche degli altri, perché ad esempio si prevede per il 2017 un costo di 7,7 euro per un giga quando già nel mercato vi sono operatori che a livello domestico vendono un giga per 1 o 2 euro, quindi è evidente che sarà molto difficile per un operatore che ha questa tariffa domestica di permettere al proprio utente di avere la stessa tariffa in roaming dovendo sopportare quel costo, ma da metà giugno sarà obbligato a farlo, quindi in quel caso quell'operatore che riceve 1 o 2 euro dal cliente e deve pagare 7,7 euro all'estero per l'accesso alla rete andrà in perdita, oppure dovrà aumentare i prezzi delle tariffe domestiche, oppure dovrà smettere di fornire roaming, oppure dovrà chiedere un'eccezione al proprio regolatore dicendo sto perdendo con questo servizio, dammi l'autorizzazione a applicare di nuovo dei sovrapprezzi roaming. Quindi questa è una sorta di paradosso, cioè che le tariffe del mercato libero all'interno dei confini nazionali di molti paesi sono già oggi più basse di quello regolamentato transfrontaliero, chiamiamolo così, e da un certo punto di vista l'Unione Europea, la Commissione, il Consiglio, il Parlamento, perché ricordiamo che questa materia è stata frutto di accordi a livello tecnico tra esperti che lavorano per il Parlamento, il Consiglio e la Commissione Europea, e poi tutto dovrà essere poi approvato anche a livello politico, ma diciamo che hanno dovuto trovare una quadra, una media tra stati che hanno costi di telefonia molto diversi tra di loro. Beh, però questo aspetto è molto enfatizzato, perché già adesso in Italia, nei grandi paesi, i prezzi retail sono molto bassi. E allora come mai sulla stessa rete, se viaggia un servizio dati domestico, viene venduto al cliente per 1 o 2 euro, se sulla stessa rete invece si vuole fare un servizio in roaming per un utente estero, costa quantomeno 7,7, è la stessa rete, lo stesso servizio, cioè è una differenza di prezzo assolutamente arbitraria. Evidentemente lì non c'è un problema di recupero dei costi, c'è una mossa politica volta a proteggere ciascun mercato nazionale dalla concorrenza dei paesi esteri. Certo, questo è un elemento importante che vogliamo sottolineare, cioè ci sono stati non tanto l'Unione Europea ma alcuni paesi, alcuni stati, in primis Germania e Francia, poi tu magari aggiungi qualche altro paese, che ha voluto creare un meccanismo tale per cui sì, ci sarà roaming a zero, poi spieghiamo anche che 0-0 non sarà, ma senza andare troppo a rompere le scatole agli operatori nazionali. Sì, Germania e Francia e Spagna sono sicuramente i paesi che hanno maggiormente supportato questa decisione politica, anche l'Italia l'ha sostenuta. Poi vi è un po' la divisione tra paesi nordici e quelli mediterranei, perché quelli nordici viaggiano di più e vorrebbero pagare di meno, e quelli mediterranei incassano di più dal roaming, quindi vorrebbero avere le tariffe più alte. Però questo è un argomento abbastanza, un po' troppo enfatizzato, perché non stiamo parlando di cifre tali da giustificare appunto dei prezzi così alti. Senti, ma se il mercato da solo era riuscito a stabilire dei prezzi all'ingrosso molto più bassi, perché si è voluto regolamentare questi prezzi, che ricordiamo sono tariffe massime che sono state stabilite? Poi ovviamente gli operatori potranno anche accordarsi per tariffe più basse. Ma il mercato lo ha fatto solo per i servizi domestici, mentre invece per i servizi a roaming il mercato tendeva a aumentare i prezzi molto al di sopra di quelli regolamentati attualmente, appunto perché ogni operatore nazionale vuole impedire agli operatori esteri di attaccarlo nel proprio mercato. Quindi queste tariffe regolamentate comunque abbassano quello che sarebbero le pretese degli operatori domestici, ma non le abbassano abbastanza, perché alla fine ciò che conta è l'allineamento tra queste tariffe all'ingrosso e i prezzi che ci stanno sul mercato. Ripeto l'esempio: se io in Italia sono abituato a pagare 1 o 2 giga per 1 o 2 euro per un giga, e quando vado all'estero pretendo lo stesso trattamento ma il mio operatore deve pagare 7 euro o più all'operatore estero, il mio operatore perderà. Certo, però non è escluso che alcuni operatori poi tra di loro si accorderanno per prezzi diversi. È vero, ed infatti questo problema riguarda soprattutto gli operatori più piccoli o gli operatori virtuali, quelli che effettivamente devono chiedere l'accesso a alle reti degli altri. Mm. Quelli che hanno meno potere negoziale, diciamo. Sì, infatti gli operatori dominanti mobili, Vodafone, Orange, TIM, Deutsche Telekom, che sono più grandi, in genere si scambiano il traffico tra di loro, quindi loro non saranno impattati da questo problema. Certo, sono tutti gli operatori virtuali o altri piccoli operatori, e ricordiamo che in Europa ce ne sono tantissimi, cioè è molto popolata l'Unione Europea di questi operatori. Tra l'altro, questa proliferazione di operatori è stato un vanto dell'Unione Europea, perché ha contribuito a far diminuire i prezzi. Sì, perché creano una pressione competitiva sui grandi operatori e poi vanno ad occuparsi di nicchie di mercato che i grandi operatori normalmente non andrebbero certamente a guardare. Certo, è possibile che alcuni operatori nei prossimi mesi, quindi dal 15 giugno in poi o un po' più in là, proporranno delle tariffe che non prevedono il roaming, perché ricordiamo che l'Unione Europea ha imposto a partire dal 15 giugno che gli extra costi del roaming non ci siano più, quindi non si può far pagare in più il traffico roaming, quindi quando si è all'estero si deve pagare come quando si è nel proprio paese domestico, ma la concessione del roaming non è imposta, non è obbligatoria. Infatti non è obbligatorio, alcuni operatori di nicchia potrebbero decidere di fare così, però in genere è una scelta di marketing molto pesante, perché non si può fare stare veramente sul mercato senza più dare roaming, visto che adesso molti utenti si aspetteranno appunto di poter andare all'estero e poter utilizzare il telefonino come a casa loro. Certo. Senti, a proposito di questi limiti, sempre per spiegare che non tutto luccica così come ci viene raccontato spesso, allora non è vero che non ci sarà più roaming, ci sono dei limiti all'uso del telefono all'estero, giusto? Spieghiamo quali sono questi limiti. Sì. Allora, ci sono dei limiti. Allora, in principio i sovraccosti roaming dovrebbero scomparire, e onestamente questo bisogna riconoscerlo, perché questo è l'obiettivo finale di tutto questo pacchetto regolamentare. Però vi sono una serie di eccezioni che rendono appunto il quadro meno luccicante. Innanzitutto l'abolizione del roaming riguarda i cittadini che viaggiano, non i cittadini in generale, per cui se io vado all'estero o per un viaggio occasionale usufruisco di questo beneficio, ma se io mi trasferisco all'estero non posso più invocarlo. Gli operatori telecom potranno controllare che il proprio abbonato usufruisca legittimamente dell'esenzione al roaming, potranno controllare se prevalga o meno in un arco di tempo il consumo nazionale o il consumo all'estero, sempre nello stesso arco di tempo se l'utente si trovi più all'estero o nel paese d'origine, e sulla base di queste valutazioni potrebbero anche notificare all'utente che vi è un uso scorretto da parte del servizio, e potrebbero ricominciare ad applicargli i sovraccosti. Mm. E mi sembra di capire che molti di questi limiti non sono né ben definiti o comunque non sono ancora definiti, bisognerà aspettare ancora qualche mese. Beh, sì, dovranno essere sviluppati, spero con chiarezza, dagli operatori mobili, ma non sarà facile, perché bisognerà organizzare un servizio apposito e bisognerà stabilire una policy che dovrà essere resa conoscibile in tempo utile agli utenti. Quindi diciamo l'Unione Europea stabilirà dei perimetri, dei limiti generici, e poi bisognerà poi calibrarli sulle tariffe. Sì, in parte questi criteri ci sono già, sono quelli che ho appena detto, e probabilmente se gli operatori non saranno in grado di essere abbastanza chiari, mi aspetto un nuovo intervento da parte delle istituzioni europee. Certo, però effettivamente, come mi hanno detto anche altre persone del settore, ci sono molte aree grigie, perché quando si dice per un certo periodo, ma poi non si dice quant'è questo periodo. No. Beh, non, in verità sono 4 mesi. Ah, quindi viene stabilito. Regolamente, sì. Poi vi sono altre zone abbastanza complesse, perché nel caso di offerte specifiche quali i bundle di traffico internet illimitato, o nel caso di tariffe prepagate, carte prepagate, In tali casi l'esenzione dal sovraccosto roaming non è totale, ma va calcolata sulla base della specificità di ciascuna offerta domestica. È abbastanza complesso e penso che anche lì gli utenti dovranno leggersi delle offerte contrattuali molto dettagliate. Complicate, sì. Comunque interessante tutto questo retroscena. Quindi potremmo dire, se uno viaggia per turismo ogni tanto non c'è problema, ci sarà veramente roaming zero. Se uno viaggia per lavoro ogni tanto non c'è problema, magari anche alcuni giorni alla settimana, già se uno passa quasi tutta la settimana all'estero per lavoro e torna per il weekend, già lì forse qualche dubbio mi viene. Sì, quello potrebbe essere uno di quei casi grigi in cui al momento è l'operatore telecom a dover sviluppare una policy, perché non c'è un indirizzo da parte del... Sì. Poi c'è il caso che viene utilizzato anche per esempio, io che pensando che appunto ci sia l'abolizione del roaming, mi compro una SIM di un paese dove la telefonia mobile è a basso costo, molto più basso rispetto all'Italia, anche se noi siamo comunque nella fascia bassa del mercato, e approfittando di quella tariffa la uso nei confini nazionali in Italia. Non si potrà fare, giusto? No, non si potrà fare, ma comunque sarebbe difficile anche per via di queste tariffe all'ingrosso molto elevate, perché nel caso sia una SIM greca, lituana o finlandese, sarà difficile avere l'accesso roaming alla stessa, alle stesse condizioni, perché l'operatore estero dovrebbe comunque pagare quelle tariffe all'ingrosso che sarebbero superiori al ricavo al dettaglio che ha dal proprio cliente, quindi l'operatore estero andrebbe in perdita. Certo, quindi il meccanismo dei prezzi all'ingrosso determina questa impossibilità di fatto. Si difende i mercati nazionali, impedisce una concorrenza tra operatori di diversi paesi. Certo, da un certo punto di vista la lettura di tutto questo meccanismo, che ha molti aspetti veramente molto complicati, è che politicamente, come messaggio di facciata, l'Unione Europea dice aboliamo i costi del roaming perché il mercato è un mercato unico, e poi in realtà dietro le quinte, e adesso le stiamo raccontando, dietro le quinte c'è una forte difesa degli interessi nazionali, almeno dei paesi più importanti, più grossi. Sì, diciamo che si cerca di fare un mercato unico dei consumatori, questo è vero, perché questa proposta va in questa direzione, ma non si vuole assolutamente fare un mercato unico degli operatori. Gli operatori devono fare concorrenza ognuno nel proprio paese. Certo. Senti, se è vero, e molto probabilmente è vero, che in futuro avranno vita più facile i grandi operatori che riescono a trovare accordi, che si riescono a scambiare il traffico rispetto ai piccoli operatori, tu pensi che si vada verso un mercato dove vinceranno, cresceranno e magari rimarranno solo grandi operatori, addirittura paneuropei, rispetto a operatori locali o addirittura piccoli operatori regionali? Sicuramente gli operatori più piccoli, virtuali, quelli avranno grossi problemi per continuare a competere, perché appunto questo meccanismo delle tariffe all'ingrosso li mette fuori mercato per quanto riguarda i servizi roaming, e quindi ci sarà una prevalenza di operatori dominanti, quindi meno concorrenza nei loro confronti. Ma non si andrà verso un mercato paneuropeo, perché questo meccanismo, ripeto, mira a consolidare i mercati nazionali, a impedire concorrenza tra paese e paese. Molto bene, io ringrazio Innocenzo Gen per essere stato con noi, a presto e buon lavoro. Arrivederci. Ora parliamo di assicurazioni, di una in particolar modo, ma di fatto parliamo del settore. Abbiamo detto più volte, diciamo molto spesso, che il mobile, quindi lo smartphone, diventa sempre più il centro di molte comunicazioni. Prima abbiamo commentato un dato sulla pubblicità che è sempre più transita attraverso gli smartphone. Io dico spesso che lo smartphone ormai è diventato il telecomando della nostra vita e quindi le aziende lottano per attirare l'attenzione del consumatore sullo smartphone. Ci sono proprio dei dati, delle ricerche sul numero di applicazioni che mediamente uno ha, di quante ne utilizza e della difficoltà che le aziende hanno per trovare uno spazio per riuscire a farsi utilizzare sullo smartphone. Ed è questo sicuramente un aspetto molto intrigante e importante delle strategie delle aziende. Allora, le assicurazioni, così come le banche, così come tante altre istituzioni molto complesse, molto tradizionali e anche molto regolamentate, perché questo è sicuramente un problema che frena l'innovazione, comunque rallenta l'innovazione, dicevo, anche le assicurazioni stanno facendo le loro app e stanno proponendo ai consumatori una nuova modalità per interagire, per fare delle cose che fino ad, ancora ad oggi facciamo o con la carta o con il telefono oppure personalmente. L'evoluzione non è rapidissima, devo dire che così come succede nel fintech, di cui si parla tantissimo ma ancora poco si vede, soprattutto in termini di ricavi, ci sono tante startup, tanti finanziamenti, ma non è che abbiamo visto esplodere qualche cosa di veramente interessante. Ci sono molte cose interessanti che abbiamo raccontato anche 2024 e magari racconteremo, però per il momento non è che c'è un Facebook o una Google del fintech. E visto che il mondo delle assicurazioni praticamente fa parte di questo mega mondo del fintech, cioè la tecnologia al servizio della finanza, beh, più o meno le dinamiche sono le stesse. Ci sono molte startup che sono nate, molte startup che offrono servizi innovativi molto interessanti, e ci danno magari un assaggio di quello che sarà il futuro, ma la stragrande maggioranza del mercato la fanno ancora i player, quelli storici, le grandi assicurazioni, anche per motivi regolamentari, perché il mercato non è facilmente, non è come Airbnb dove praticamente entri in un mercato dove non ci sono regole, Uber entra in un mercato dove ci sono molte aree grigie, ti infili in queste aree. Insomma, stiamo parlando di finanze, di assicurazioni. Detto questo, sentiamo che cosa ha fatto, che cosa ha presentato questa settimana Allianz, che è una delle più grandi assicurazioni mondiali, una delle più grandi in Europa, tedesca. La nuova app si chiama Allianz Now. Roberto Felici è il responsabile marketing che ha presentato questa nuova applicazione. Allianz Now è un aggiornamento dei contratti che hanno già i nostri clienti, un aggiornamento gratuito che cambia il modo di usare la polizza. Usare la polizza è un'espressione un po' particolare, ma vuol dire che nel momento in cui succede qualcosa di emergenziale, invece che cercare il contratto, cercare di capire quello che c'è scritto, perché alla fine è scritto in termini legali, e magari provare a utilizzare delle procedure un po' burocratiche, forse anche obsolete, che non funzionano più, nel tuo telefonino c'è un'applicazione con una lista di azioni che in determinati contesti tu puoi svolgere per trarti d'impaccio in base al contratto che hai acquistato, che ti sono immediatamente disponibili con processi super super super semplici e veloci, 24 ore al giorno, ogni giorno, in qualunque posto tu stia. È un'estensione del servizio che ti può dare normalmente la tua agenzia direttamente nel tuo telefonino. Il tuo agente viene comunque avvertito che tu sei in una situazione di emergenza e che Allianz la sta gestendo, e potrà poi mettersi a tua disposizione per esempio per la denuncia di sinistro successiva, ma tutto ciò che avviene nella situazione di emergenza è prontamente a disposizione con tutti i servizi che in fondo tu hai acquistato. Questo per te e per i tuoi familiari o i tuoi amici o i tuoi parenti, perché fai scaricare l'app anche a loro e condividi le protezioni assicurative che tu hai già stipulato, per esempio il diritto di chiamare il carro attrezzi da parte di tua moglie che sta guidando la tua autovettura ma magari neanche ricorda che è una possibilità casomai si presenti l'esigenza. Quindi è una sorta di self-service. Più che un self-service, a me piace chiamarlo telecomando, perché è vero che lo utilizzi da solo, ma serve a utilizzare quei servizi per i quali non c'è il valore aggiunto dell'intermediario. Chiamare un carro attrezzi tu lo vuoi fare in modo istantaneo, non vuoi chiamare qualcuno che lo chiama al posto tuo, mentre invece il consulente è quello che ti aiuta a capire che ti serve quella polizza, e lo farà anche tramite questa applicazione, e poi si mette a tua disposizione un momento dopo che è arrivato il carro attrezzi, per fare l'esempio automobilistico, per aiutarti nella denuncia di sinistro che può avere qualche inciampo. Se volessimo continuare con questo esempio, il CID comunque lo devo compilare sulla carta o posso smaterializzare questo processo? No, il CID lo devi compilare sulla carta, perché per farlo digitale servirebbe un accordo intercompagnie che è allo studio da parte di ANIA, però al momento ancora non c'è. Però contemporaneamente lo puoi fotografare con l'applicazione e invece che mandarcelo in forma cartacea, che richiede tempo e scomodità, ce lo invii in forma digitale. E in più, visto che hai un telefonino in mano, scatti le fotografie del sinistro, geolocalizzi il luogo del sinistro, la data, l'ora, e magari anche fai dei controlli sul fatto che la controparte sia assicurata, in modo tale da continuare la procedura di denuncia normale o chiamare la polizia. Perché magari lo dimentichiamo, ma in Italia purtroppo girano 4 milioni di vetture senza assicurazione ed è bene scoprirlo nel momento in cui questa app ti dà assistenza. Quali altri servizi o quali altre possibilità ci saranno nel futuro? Nel momento in cui ho sul mio telefonino un'applicazione di questo genere, cosa potrò fare? Ma anzitutto quello che possiamo fare adesso, possiamo gestire ogni tipo di emergenza, quindi non soltanto il sinistro automobilistico, ma il tentativo di furto, come pure un problema in casa, un allagamento, un tentato furto, un incendio, ma anche sanitario, le esigenze di un consulto medico, oppure purtroppo un infortunio o situazioni anche più gravi dove magari non sarai tu a usare la polizza perché non sei in condizione di farlo, ed è bene che i tuoi familiari abbiano accesso veloce alle polizze e alle azioni che queste permettono di svolgere. In prospettiva ci immaginiamo facilmente un maggior numero di prodotti attivati, per esempio per le partite IVA e tante altre cose, ma anche dei servizi ancora più moderni, come la connessione con dei sistemi IoT, per esempio, che a seguito di un alert che ti dice guarda che c'è una perdita d'acqua, un incendio o un'intrusione in casa tua, attivino automaticamente le possibilità di gestione, di reazione che la polizza assicurativa mette a disposizione, in modo tale che tu, mentre sei in vacanza, possa gestire l'emergenza che ti è stata segnalata da un sensore. Prima ignoravi tutto, oggi puoi saperlo, ma è difficile reagire. Con l'aiuto di Allianz Now domani potrai saperlo e anche gestirlo. È tutto per questa puntata di 2024, una chiosa sull'intervista che abbiamo realizzato sul motore di ricerca, su Quant, con Alberto Chalon, sicuramente un tema molto interessante anche per i numeri che fanno impressione di questo mercato. Allora, è sicuramente un'operazione molto difficile, quindi in bocca al lupo, una sfida complessa, anche perché mi dicevano alcuni esperti, alcuni addetti ai lavori che ho contattato questa settimana così per avere un loro parere, mi dicevano che molti investitori pubblicitari vogliono pianificare ormai solo su strumenti che profilano in modo molto preciso il consumatore. Quindi ovviamente se la pubblicità e chi investe in pubblicità va verso quella direzione, beh, è molto difficile convincerli che ci sia spazio per altro. Però è anche vero che alcuni consumatori potrebbero trovare, ed è infatti l'intenzione di Quant, potrebbero trovare utile rivolgersi a un motore di ricerca di questo genere, o pensate a servizi di posta elettronica che non mettono il naso nei messaggi di posta elettronica, così come fa ad esempio Gmail, per poi offrirti pubblicità correlata a quello che ai temi di cui parli all'interno, scrivi all'interno della posta elettronica. Alcuni consumatori potrebbero essere interessati, però ovviamente il grado di usabilità di questi servizi deve essere pari a quello del player principale, se no molti consumatori non accettano questo trade-off. È una sfida interessante. Poi un giorno parliamo anche della capacità o incapacità degli investitori pubblicitari di capire che cosa sta succedendo nel mercato e di investire i soldi nel modo giusto. Ma questo è un altro capitolo, però visto che ci sono state recentemente alcune prese di posizione, soprattutto negli Stati Uniti, forse è un tema su cui tornare, perché ci sono molti esperti, un mercato in crescita esponenziale, ma forse ancora pochi che ci capiscono veramente molto bene. E quei pochi ovviamente sono preziosissimi. Bene, chiudiamo questa settimana, questa puntata di 2024, abbassiamo la serranda, la riapriremo e la rialzeremo la prossima settimana. L'indirizzo di posta elettronica che potete utilizzare è 2024@radio24.it. Se siete particolarmente esperti di un settore, con molta calma e molta prudenza fatevi avanti per magari darmi alcuni pareri sui temi che abbiamo affrontato e di cui abbiamo parlato. Grazie come sempre per la vostra attenzione, ci risentiamo la prossima settimana.